rivoluzione. Rivoluzione conservatrice e conservazione rivoluzionaria, politica e memoria nell'Italia degli ultimi 150 anni. Buonasera, sono qui stasera perché non ho altre prospettive nella vita. In data di ieri, 25 febbraio 2161, ho presentato la mia tesi di laurea. Mi sono laureata in storia antica. Io lo so che cosa state pensando, però non mi vergogno. Non mi vergogno più, posso capire che può sembrare una scelta un po' così, cioè è una scelta un po', non lo so, quello che so è che già da molto tempo ormai nessuno si iscrive più a storia antica, io lo so bene perché ero fuori corso da 6 anni. La cosa ha suscitato un certo interesse, cioè non la cosa dei 7 anni di ritardo, più che altro il titolo della tesi, Rivoluzione conservatrice e conservazione rivoluzionaria, politica e memoria nell'Italia degli ultimi 150 anni, 2011-2161. Un tema che può sembrare controverso, lo so, lo è stato anche per me. Dopo 8 anni non mi ricordo neanche più perché ho scelto il titolo, però si sa, no? Dopo 9 anni le cose cambiano, poi comunque la memoria fa cileca. Comunque, dopo 10 anni di studi, di desolazione, finalmente io mi sono laureata. Perché? A 11 anni dalla mia iscrizione questa laurea non vale nulla. Questa è una situazione molto diffusa fra i laureati in storia antica. Una situazione a cui si è cercato di porre rimedio negli ultimi anni. Il Ministero non è rimasto con le mani in mano, ma per porre fine a questa mancanza di prospettive ha preso drastiche e significative misure e ha soppresso tutti i corsi di storia che si occupano del passato. Ma tutti quelli di voi che hanno a che fare con la facoltà di lettere e filosofia dell'università pubblica di questo paese lo sanno. Gli unici corsi rimasti attivi oggi sono quelli che riguardano la storia del presente. Sentite questa statistica. La statistica però riguarda i corsi più frequentati delle università italiane degli ultimi anni. C'è storia contemporanea, storia dell'attualità, storia di adesso, storia di questo preciso momento, oppure nel campo di storia dello spettacolo. C'è storia dell'ultima stagione televisiva, storia dell'ultima edizione dei campionati mondiali di calcio, storia dell'ultima edizione dei campionati europei di calcio, questa è seconda del biennio accademico. C'è storia della rassegna stampa di stamattina, fino alla autoreferenzialità, storia di questo corso di laurea, storia di quello che ho fatto oggi pomeriggio, o alla meta narrazione, storia della storia di questo corso di laurea. Lo so, i titoli di questi corsi non significano nulla, però sono comunque molto carini. Iscriviti a uno di questi, te lo dicevo sempre, è una questione di pragmatismo. Tutto questo è il risultato non solo di una riforma, ma di molte riforme portate avanti fra molti dibattiti, anche controversi, però prima c'è stata un'opposizione, guardate per volantino. Lo studio di una storia che elimina il problema della storia è di per sé inutile. È un concetto banale, ma condivisibile. Perché appiattisce le prospettive di un problema di fondamentale importanza, quello della conoscenza delle nostre origini. Eccetera. Questa riforma ha come unico scopo quello di uccidere un'università italiana che è già in ginocchio a causa dei tagli per i fondi. No. Questa università forma solo ex studenti e non a nuovi pensatori. Avanti. In un contesto completamente avulso da quello che si prospetta essere il mondo del lavoro di avanti, domani. Avanti. Non lasciamoci soggiogare. Non lasciamoci soggiogare da questa classe dirigente piegata alle necessità di un sistema economico veterocapitalista. Tutti uniti contro sti cazzi, concentrazioni in piazza d'Alta Italia per mostrare che gli immensi sforzi che stiamo facendo servono a qualche cosa. Solo se camminiamo tutti insieme, tutti uniti lungo questo cammino, un giorno forse non lontano arriveremo da qualche avanti. Parte. Avanti! Ecco, quel volantino l'ho trovato l'altro giorno attaccato alla macchinetta del caffè, ma io non so neanche da quanto tempo queste sia cose lì. Sono sempre successe, perché sappiamo da recenti studi etnoantropologici condotti con l'aiuto del carbonio 14, queste manifestazioni pubbliche si ripetevano anche più volte durante il corso dell'anno. Quindi un po' come per la tragedia greca, ecco, anche l'origine di questi rituali resta ai giorni d'oggi per noi un mistero, come un mistero se poi sortissero o meno gli effetti desiderati, però secondo me no! Il contenuto di questo pamphlet è la testimonianza che in tempi non remoti in questo paese un'opposizione esistesse, forse più per una questione di fedeltà onomastica che ideologica, comunque effettivamente si opponesse. Con l'inconfondibile strategia che contraddistingue la nostra opposizione. Negoziamo. Come succede spesso in questo paese, quando il negoziato entrava in una fase di stallo, il lupo faceva finta di fare un passo indietro e poi si ripresentava alla porta travestito da pecora. Si arrivò così a quel compromesso che permetteva a tutti i corsi di storia indirizzati allo studio del passato a patto che questi non si occupassero di passato. E fu così che 14 anni fa mi fu concesso di iscrivermi a storia antica a patto che non studiassi storia antica. Allora io feci finta di studiare storia della rana e della fava, ma intanto preparai la mia strategia di opposizione dall'interno solitaria. La mia tesi era passata più o meno inosservata. Bene, ieri ha cominciato a far parlare di sé, non perché mi ci sono voluti 16 anni a prepararla. Non per questo, per il voto. L'unico caso al mondo è stata bocciata in sede di discussione. E dipenderà questo scarsissimo risultato dai contenuti o dalla forma di questa fantomatica tesi? Tutti i membri della commissione mi hanno risposto ridendo che dipendeva dalla forma. Allora io ho pensato di presentare qui stasera lo stesso contenuto, ma in una forma nuova. Ho coinvolto in questa operazione numerose persone che mi hanno accompagnato in questi 17 anni di ricerche. Qualcuno ha accettato, qualcuno... Sì, però credo che sia arrivato anche il momento di introdurvi il tema della serata, di cui finora abbiamo tanto parlato, come succede spesso in questo paese, senza dire niente, dai! La mia ricerca consiste in un'analisi sociopolitica dell'ultimo secolo e mezzo di storia di questo paese, dai festeggiamenti per il 150enario della proclamazione dello Stato italiano 2011 ad oggi, il tricentenario 2161. Ho cominciato a lavorarci nel momento in cui ben 18 anni fa, nella casa dei miei genitori, dove vivo tuttora, ho trovato alcune carte appartenenti al mio trisnonno. Documenti, ritagli di giornale, lettere, portavano tutti lo stesso timbro. Fronte rivoluzionario italiano. E poi c'erano altri articoli di giornale su cui compariva la stessa parola, rivoluzione. Se ci pensate, tutti i più grandi paesi al mondo hanno avuto la rivoluzione francese, la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana, la rivoluzione russa, la rivoluzione cinese, quella messicana, ma in Italia? In Italia era la prima volta che io sentivo la parola rivoluzione associata al paese in cui sono nata. Mi è sembrata una cosa enorme. Io non avevo mai pensato che in Italia fosse possibile una rivoluzione. Eppure sì, c'era stata la rivoluzione. E allora perché nessuno ne aveva mai parlato? Perché non era rimasta traccia? Rovistando fra questi articoli di giornale ho notato una cosa interessante, che da un certo giorno, da un certo anno, la parola rivoluzione sparisce. Non se ne trova più traccia nemmeno una volta. Allora ho chiesto ai miei nonni, ho chiesto ai miei genitori, ho chiesto ai miei amici, niente, nessuno sapeva niente. Allora io ho cercato nelle biblioteche dell'università, niente, nelle biblioteche pubbliche, niente, negli archivi della Biblioteca Nazionale, niente, niente, niente. In Italia non ci si ricorda mai di niente. Allora io ho fatto quello che si fa sempre in questi casi, in questo paese. Ho preso tutte le mie cose e me ne sono andata a studiare all'estero. Storia d'Italia che presiede la cattedra nell'università estera dove ho portato a termine le mie ricerche. Un'università molto rinomata di cui però io non farò il nome per non sputtanarla. E anche del professore non faremo il nome per non sputtanarla, quindi lo chiameremo con un nome vago. Rossi. Gabriello Rossi. Sì, buonasera. Innanzitutto io voglio ringraziare chi mi ha invitato qui questa sera per parlare di un tema che ci sta tanto a cuore. Come sapete, non è stato possibile tenere questa conferenza nel luogo in cui una conferenza di questo genere si dovrebbe tenere, e cioè nelle aule di un'università pubblica di questo paese. Siamo comunque qui, in questo luogo ameno e accogliente, e prima di tutto io voglio ringraziare voi, gentile pubblico, che nonostante l'ora tarda, nonostante la digestione ancora da completare, la tentazione di assopirsi su queste comode poltrone, si è comunque scomodato a venire qui. Grazie, grazie, io non voglio dilungarmi oltre e dunque andrò subito al dunque. Dunque, mi è stato chiesto di cominciare questa serata partendo dal principio, da un'analisi storica della particolare situazione politica e sociale dell'Italia degli ultimi secoli. In quel periodo l'Italia era un paese molto diverso da come lo conosciamo noi oggi, era un paese molto giovane, immaturo da certi punti di vista, aveva raggiunto l'unità territoriale, ma solo nominalmente. In realtà esistevano grosse differenze tra nord, centro, sud e isole, una differenza soprattutto culturale, ma anche sociale, morale, caratteriale, abissale. Anche se per tradizione il nord del paese era più ricco rispetto al sud, la situazione economica era sempre un po' in bilico per tutti, soprattutto per lo Stato. La disastrosa situazione del bilancio statale aveva portato infatti alcuni governi a intraprendere una serie di riforme in senso liberista, soprattutto attraverso un ampio ventaglio di privatizzazioni. Si cominciò da quelle industrie considerate un mero onere per lo Stato, si passò poi a industrie ben più strategiche come energia, trasporti e altri settori come i servizi, e una volta privatizzato tutti i servizi pubblici, io non so se rendo l'idea, si arrivò all'ultimo gradino della scala delle liberalizzazioni, e cioè la privatizzazione dello Stato stesso. Lo Stato non si sarebbe più dovuto preoccupare né di debito pubblico, né di spese inutili, né di niente. Quando dico niente, intendo dire proprio di niente. Si viveva così, aggrappati ad una grande speranza verso un grande futuro che non si sarebbe concretizzato mai. I governi si alternavano piuttosto velocemente l'un l'altro, vitalizzando il processo di ricambio democratico. Tanta fretta avevano di vitalizzare il processo di ricambio democratico che spesso non terminavano nemmeno il mandato di 5 anni che veniva loro assegnato. Flessibilità era la parola d'ordine, e segno di grande coerenza con i tempi, imperava la pratica della compravendita dei voti e del trasformismo che fomentava alleanze politiche basate appunto sulla logica della flessibilità. Lo Stato era debole con i forti e forte con i deboli. In materia di politica estera l'Italia viveva un timido colonialismo che la vedeva impegnata in guerre del tutto inutili a fianco delle grandi potenze mondiali. Ma anche se l'Italia veniva presentata a fianco delle grandi potenze mondiali, la reale realtà dei fatti è che in linea di massima non contava niente. In materia di politica interna, uno dei grandi problemi risolti del paese era quello della criminalità organizzata. La disputa tra criminalità organizzata e Stato era molto più complessa di come la conosciamo noi oggi, perché era molto difficile distinguere l'una dall'altra. Naturalmente c'erano grosse differenze, ad esempio nella criminalità organizzata l'importanza delle gerarchie familiari era pubblicamente dichiarata, anche l'apparato statale funzionava a gestione familiare, ma la cosa veniva tenuta nascosta perché non veniva vista di buon occhio. E il volume di affari che faceva capo alle due grandi organizzazioni era del tutto simile, con la differenza che le attività della criminalità organizzata avvenivano alla luce del sole sole, anche se tutti facevano finta di niente, mentre quelle dello Stato non avvenivano mai alla luce del sole, perché capirete che lo Stato si vergognava molto e le copriva appunto con segreto di Stato. Ma la grande differenza tra le due grandi organizzazioni risiedeva nel fatto che la criminalità organizzata riusciva meglio a gestire il danaro incassato, cioè, come dice proprio la parola, la criminalità era davvero organizzata in un sistema stabile, mentre lo Stato era totalmente disorganizzato. Allora per lo Stato la criminalità organizzata divenne un problema più che altro di concorrenza diretta, come dice il motto: se non puoi sconfiggerli, fateli amici. E allora fu così che lo Stato attuò quella politica di tolleranza per vedere se riusciva anche a lui di trarne qualche vantaggio. E fu così che il governo Giolitti... Professore, no! Quando le ho chiesto di venire a parlare della storia d'Italia di inizio secolo, intendevo il secolo XXI. No, magari c'è stato un fraintendimento, nel senso che... No, beh, se lei voleva che io parlassi del secolo XXI, ma no, ma non ci siamo proprio, cioè, nel senso è tutto un altro paio di maniche, cioè, dovrei almeno andare a riscrivere il mio intervento, e se avete la pazienza di aspettare, io torno subito. A questo punto neanche il passamontagna serve più. Io mi scuso per questo inconveniente. Allora, mentre aspettiamo che il professore riscriva la storia, credo che possiamo andare avanti con il capitolo successivo. Poco fa vi accennavo ai documenti appartenenti al mio trisnonno che risalivano al secolo XXI, su cui compariva la parola rivoluzione. Siccome io prevedevo un po' di scetticismo tra di voi stasera, allora ho portato alcuni esemplari qui per voi. Ma per rendere tutto più vivace, ce li leggerà il mezzo busto di una nota rassegna stampa delle 5 del mattino di un noto canale televisivo nazionale, di cui però noi non faremo il nome per non sputtanarlo. Benvenuta in la rassegna stampa di questa mattina, che non riguarda le notizie di questa giornata, ma le notizie di molti anni fa. Iniziamo con una notizia che è sulle prime pagine di tutti i quotidiani: ore contate per Muhammad, beduino dalle 7. Vite, guida della rivoluzione arabica, libica, popolare e socialista. Gheddafi da 41 anni è al potere. Forse abbiamo anche qui una foto del dittatore, il più longevo dei leader arabi. Eccolo. Benissimo, andiamo avanti con una notizia invece che arriva da oltre oceano. A New York si è svolta la fiera del giocattolo, appena conclusasi con questa grande rivoluzione tecnologica che campeggia a tutta pagina. Monopoli, addio carte, ora ci si sfida sul computer, niente più dadi né banconote, decide tutto una torre a infrarossi che lancia le istruzioni attraverso un mini amplificatore, ma è polemica con è, così non è più un gioco. Benissimo, passiamo ora a una notizia che interesserà tutte le persone che hanno a che fare con le notizie militari, sia degli Stati Uniti sia di altri paesi. Rivoluzione al Pentagono, il titolo, sottotitolo si legge: sì ai soldati gay. Bene, questo è tutto per l'edizione di questa rassegna stampa. Non mi resta che lasciarvi con i programmi della nostra rete. Auguro a tutti un buon mattino e una buona giornata. No, scusi, non ha nient'altro da dirci? No. Allora rimanga il dibattito. Ai vertici della rete non me lo consente. Un'opinione personale. Ah, sono sprovvisto, mi dispiace. Allora guardi lo spettacolo. Resterei volentieri, resterei veramente molto volentieri, solo che devo andare a fare colazione, altrimenti rischio un calo ipoglicemico. Mi sono svegliato soltanto 15 minuti fa. Sa, noi mezzi busti della rassegna stampa delle 5 del mattino ci svegliamo sempre un quarto d'ora prima di andare a lavorare, il nostro bioritmo. Beh, allora io la ringrazio e spero che almeno si sia divertito. No, però mi fa piacere poter apparire ogni tanto davanti al pubblico per intero, e non soltanto dalla cintola in su, perché anche quello che c'è dalla cintola in giù è importante per un uomo. Non so se mi spiego. Scusi, non faccia caso a quello che dico, a volte soffro di cali di zucchero. Arrivederci. Allora, penso che a questo punto il professore abbia avuto tempo per riscrivere il suo intervento, quindi io lo richiamerei sul palco. Professore! C'è qualcuno che per favore può andare in camerino, chiamare il professore e dirgli che dovrebbe rientrare, per favore! Ma non era già entrato? Sì, prima, però poi ha sbagliato l'intervento, allora è tornato a riscriverlo. Dovrebbe rientrare la seconda volta. No, io dico la seconda volta, perché 2 minuti fa è uscito dal camerino col passamontagna, ha detto che tornava sul palco, non è rientrato? Ah. Allora mi guardi se c'è la sua macchina nella via adiacente al teatro, per favore. La macchina non c'è. Possono entrare i miei due balletti Dodò e Dadà. È strano che sia riuscito a scappare il professore. Avevo tagliato tutte le gomme delle auto parcheggiate qui fuori dal teatro. Forse è venuto in bicicletta. Da buona questa battuta, Dadà. Grazie, Dodò, ma non era una battuta. E che cos'era, Dadà? Era una mountain bike. Balletti, siamo venuti adesso per riempire lo spazio che abbiamo in concessione. Balletti, lavoriamo lo stesso, produciamo prodotti dipinti di marrone. Questa canzoncina, Dadà. Sì, Dodò? È proprio una gran cagata, Dadà. Lo so, lo faccio apposta, così non stona con l'ambiente. Senti, Dadà. Sì, Dodò? Non pensi che la gente si stia domandando cosa ci fanno due stronzi con la chitarra a questo punto dello spettacolo? E tu lascia che la gente pensi quello che vuole, almeno una volta in questo paese. Balletti, siamo venuti adesso, rubiamo questo spazio che abbiamo in concessione. Prima seduti sopra il cesso, adesso sopra il palco, ma è solo un'illusione. Questa canzoncina, Dadà. Sì, Dodò? Sta prendendo una brutta piega, Dadà. Lo so, ti ho detto che lo faccio apposta, così tutto il resto sembra che vada meglio di come stia andando in realtà. Va bene, Dadà, io credo che sia arrivato il momento di spiegare al gentile pubblico che cosa ci facciamo qui. Sono perfettamente d'accordo con te, Dodò. Spiega al gentile pubblico, Dadà. D'accordo, Dodò. Allora, gentile pubblico. Sì, però basta con gli eufemismi. Pubblico. Non ci dobbiamo preoccupare se il professore ha lasciato un buco a questo punto dello spettacolo. Tanta gente in questo paese lascia dei buchi e poi se ne va. Altri invece i buchi pensano solo a riempirli, vero, Dodò? Come noi, che siamo qui per riempire questo buco! Dodò, questo è un paese libero, è un paese democratico. Una persona è completamente libera di andarsene se pensa di aver detto tutto quello che aveva da dire. E quello che vi vogliamo dire è che il centro di questa serata non saranno gli ospiti che saliranno su questo palco, ma quelli che si trovano di fronte al palco, cioè voi, il pubblico. Per questo, per riempire il buco che l'intervento del professore ha lasciato, faremo un bel gioco con voi. Dodò, ti va di spiegare il nostro gioco al nostro pubblico? Assolutamente, Dadà, ma prima riproporrei il ritmo del nostro ritornello. Balletti, ci ha ricordato adesso che abbiamo poco spazio, quindi in conclusione dovremmo ritrovare il nesso, uscire dall'incastro con un bel gioco, un bel gioco. Lo so, questa rima fa schifo, Dodò, ma ti ho detto che lo faccio apposta. Così non si creano dei dislivelli all'interno della serata. Va bene, ecco dunque il giocone che vorremmo proporvi, perché non c'è miglior modo di apprendere che non partecipare all'apprendimento. Per questo faremo un bel gioco con voi. Come avrete capito, gentile pubblico, questo spettacolo non ha come scopo quello di ricostruire un evento storico tale come esso è avvenuto. Sempre che sia avvenuto, vero Dodò? Però noi siamo abbastanza certi che sia avvenuto, eh? Diciamo... Ok, pertanto adesso faremo passare alcuni articoli di giornale tra di voi e chiederemo a voi di commentare. C'è qualcuno che si offre volontario? No, lo sapevamo, per questo io e il mio compare Dodò abbiamo deciso di procedere con un meccanismo di selezione più democratico. Il vecchio trucchetto della... canzoncina, pertanto ora faremo passare alcuni articoli di giornale dell'epoca tra di voi e quando la canzoncina si interromperà, chi rimarrà con l'articolo di giornale in mano la prenderà nel culo, come succede spesso in questo paese, e verrà chiamato democraticamente volontario qui sul palco a commentarlo insieme a noi. Ma prima riproporrei il ritmo del nostro ritornello. Spalletti, cominciamo adesso a pagare il dazio della nostra professione. Ora vi spieghiamo tutto, armati di coraggio sulla situazione. Ehi, Dadà! Sì, Dodò! Sai che cos'è quella cosa che Dodò, appena la pronuncia, è già sparita? Il silenzio, Dodò? No, è la riserva aurea dello Stato, Dadà! Balletti, se ci ascolti adesso, vorresti ammazzarci col fucile o col cannone? Anche se il vestito è brutto, ci spogliamo a letto, sin preoccupazione. Ecco, Dodò! Sì, Dadà! Che cos'è che dice la donna del direttore di un famoso telegiornale nazionale al suo dottore prima di una gastroscopia? È una domanda molto difficile questa, Dadà. Che cosa dice? Dice, dottore, questa volta proviamo con il laser, perché la ceretta mi fa troppo male. Questa volta non so se l'ho capita, Dadà. Ma sì che la capisci, magari non subito, prima o poi, ma la capisci, forza! E dai! Vabbè, via con gli articoli e via con la canzone. Balletti, se ci arresti adesso, senza gran coraggio accettiamo la prigione. Meglio il fondo della merda che ci aspetta fuori se finisce la canzone. Voglia di lavorare saltani addosso, abusiamo dello spazio, chiamiamo in concessione. Proprio come rete produce prodotti dipinti di marrone. Balletti, se ci arresti adesso, senza gran coraggio accettiamo la prigione. Meglio in fondo della merda che ci aspetta fuori se finisce la canzone. E quindi accomodatevi, state tranquilli, leggete gli articoli di giornale, se vi annoiate guardate lo spettacolo, se vi annoiate leggete gli articoli di giornale. L'importante è che voi fra un po' siate in grado di elaborare un discorso coerente su ciò che avete appena letto. Ringraziamo Dodò e Dadà. Balletti, se ci arresti adesso, senza gran coraggio accettiamo la prigione. Meglio in fondo della merda che ci aspetta fuori se finisce la canzone. Grazie, grazie, grazie. Allora, vi starete chiedendo perché stiamo facendo tutto questo durante uno spettacolo che parla di rivoluzione. Ce lo siamo chiesti anche noi. E siccome non abbiamo trovato una risposta adeguata, allora ho pensato di invitare il correlatore della mia tesi, che guarda caso è un teorico del teatro, per spiegarci. La mia apparizione è fugace, totalmente estemporanea, non preoccupatevi, non parlerò troppo. Ci terrei solo a sottolineare l'importanza del momento, so già cosa state pensando. A livello teatrale queste cose funzionano sempre, tiri in mezzo il pubblico, lo fai giocare, gli fai fare qualcosa di meglio che stare lì seduto a guardare, ma non è questo il punto. Noi, in questo momento, stiamo coinvolgendo una parte tradizionalmente passiva nel processo di ricezione dello spettacolo, la stiamo facendo diventare una parte attiva nel processo stesso di creazione dello spettacolo, perché possiamo dire che una parte di questo spettacolo che non è stata scritta sarà composta dai commenti di questi due malcapitati delegati del popolo. Stiamo cioè chiedendo a voi concentrazione. Stiamo cioè chiedendo a voi di partecipare attivamente alla scrittura proprio del nucleo argomentativo di questo spettacolo, cioè a scrivere quello che poi in termini tecnici si definisce favola, escite. Bravissima. O storia. A voi ora spetta il compito di scrivere la storia. Questo dovrebbe essere uno spunto. Se vi piace, potete farlo anche a casa vostra, dopo lo spettacolo, lontano da questo teatro. Non è pericoloso se voi sarete capaci di fare questo. Se voi siete capaci di scrivere la storia, allora voi siete i veri rivoluzionari. E questo dovrebbe essere, insomma, un esercizio di allenamento alla rivoluzione. Il mio intervento è finito. Ora vado a costituirmi. Benissimo, ecco, immagino che questo ultimo intervento prettamente teorico sia risultato un tantino noioso. Allora noi ora cercheremo di ristabilire un po' di ritmo all'interno dello spettacolo occupandoci di musica. La musica pop mi distrae. Ho invitato la mia consulente. È un'etnomusicologa che ci spiegherà il retroterra musicale della rivoluzione. Prego. Laura Pausini. Buonasera. Sì, lo so che non assomiglio per niente a Laura Pausini, infatti non sono Laura Pausini. Il nostro è solo un curioso caso di omonimia. Sarebbe infatti ridicolo pensare che io sia Laura Pausini, perché la Laura Pausini cantante non potrebbe mai essere su questo palco questa sera, visto e considerato che è vissuta molto tempo fa, a cavallo tra i secoli 20 e 21, mentre noi ci troviamo nel 2161. E comunque il mio è un nome d'arte. Grazie. Vuole spiegarci qual è la sua funzione qui stasera? Sì! Qual è? Distrarvi! Perfetto! In tempo di guerra il popolo ha bisogno di distrazioni, in tempo di pace anche, in tempo di rivoluzione figuriamoci! Prego, desista, può mostrarci i dischi che ha portato? Sono dischi che ho trovato nelle casse del mio trisnonno! Ma questa musica oggi è inascoltabile! Nel senso che non esistono più apparecchi riproduttori in grado di leggere i CD dell'epoca! Ma cosa c'entrano questi CD con la situazione storico-politica italiana del secolo XXI? Niente, direte voi. Invece no. Infatti, durante la mia ricerca, spulciando fra le classifiche musicali dell'epoca, ho notato una cosa curiosa. Le classifiche musicali dell'epoca sono stilate secondo tre distinte categorie: pop, classica colta, etnica folk. Questa ripartizione in tre categorie differenti ci dà l'idea di una precisa visione del mondo, una visione secondo cui quello che è pop non è né colto né folk. Peccato che folk sia un termine di origine sassone che significa popolo, associato a etnico dal greco ethnos, nazione, razza, popolo, e colto deriva da cultura, che è l'insieme della tradizione, del sapere scientifico, letterario e artistico di un popolo. Una tautologia. Il risultato dei volumi delle vendite non è tautologico. La musica pop piaceva più di ciò che colto e più di ciò che folk, riscuoteva più consenso, un consenso ineccepibile, il consenso del mercato. Pochi di questi dischi sono passati alla storia, invece Mozart io l'ascolto ancora. Non si deve preoccupare, perché il genere pop non è nient'altro che il risultato di un mescolamento di varie tendenze musicali precedenti. C'è un po' di jazz, un po' di blues, un po' di folk, un po' di classica anche. Solo che la sua caratteristica principale è proprio l'elaborazione di un tema che sia di facile ascolto, immediatamente riconoscibile. Musica leggera, leggera, senza impegno, tanto per distrarsi un po', eh? Distrazioni. Ma poi comunque anche Mozart era molto popolare. Mozart non è pop. Nel suo saggio l'opera parte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Walter Benjamin individua nella nascita della cultura di massa uno dei momenti chiave della storia. Secondo Benjamin, infatti, le tecniche di riproduzione seriale hanno provocato la perdita di valore nella nozione di autenticità, dando via al processo di democratizzazione dell'arte. La fruizione dell'opera non dipende più dall'ascolto dell'originale. Tutti noi possiamo dire almeno una volta nella vita di aver ascoltato Mozart senza mai davvero averlo sentito suonare, però quando ciò accade, l'opera d'arte perde il suo carattere culturale, perde il vincolo con il culto, perde la sacralità. Laura. Cambia il concetto di fruizione, più democratico. L'arte si avvicina alla quotidianità. Sì, ma la semplicità dell'ascolto, l'immediatezza della lettura semplificano di molto la natura della fruizione e riducono al minimo il tempo della riflessione. Estetica dello shock. Ma qualcosa che colpisce in modo immediato la coscienza rischia di allontanare il fruitore dall'elaborazione dell'esperienza. Il processo di fruizione, infatti, dovrebbe essere sempre accompagnato dalla critica, a cui Walter Benjamin dà un'importanza fondamentale. Senza la critica, l'opera d'arte facile, superficiale, immediata, popolare, rischia di divenire... Distrazione! Pensa a quante cose sono popolari oggi. Beh, arte popolare! Detto popolare! Racconto popolare! Prezzo popolare! Casa popolare! Consenso popolare! Decisione popolare! Governo popolare! Partito popolare! Sì, ma per cosa sta davvero il termine popolare? Che piace al popolo, destinato al popolo, da compiersi attraverso il popolo. che contribuisce allo sviluppo della coscienza critica del popolo. Oppure che sembra che contribuisca allo sviluppo della coscienza critica del popolo e poi però glielo buttano in culo al popolo. Se la fruizione di un governo popolare non è accompagnato dalla critica, c'è il rischio che l'esercizio della democrazia diventi distrazione. Questo concetto di democrazia non è classico, non è colto, non è etnico, non è folle. Questo concetto di democrazia non è nemmeno popolare. È pop. Una democrazia leggera, senza impegni, che non richiede un ascolto approfondito. Sì, sì, democrazia pop. No, io non volevo gettare fango sulla musica pop, a me piace pure il pop. Beh, tutti hanno bisogno di distrarsi ogni tanto. Ogni tanto. Però io Mozart lo ascolto ancora molto spesso. Dica pure cosa ha letto, avete avuto i vostri articoli, avete avuto modo di leggerli, spero. Sì. Ha qualche opinione? Il mio articolo parlava del fatto che il 14 novembre 2002 il Papa Wojtyla è andato in Parlamento. Non credo che nessuno l'abbia sentita con quella vocina, però se vuole alzare la voce dici sostanzialmente cosa ne pensa, invece di parlarci esattamente di cosa dice l'articolo. Diamo per scontato che lei sappia leggere. Un commento, una parola, un'opinione, un pensiero, qualsiasi cosa. Un'associazione verbale. Non saprei. Ha un'opinione su se stesso, un'opinione su questo spettacolo. Bello, bello. Bello, benissimo. Ora io le do questo fogliettino di carta e questa penna e così lei potrà mettere per scritto il suo pensiero profondo che ci ha confidato. Benissimo, e lei invece prima di mettersi a scrivere subito l'entusiasmo, mi fa piacere che lei abbia questo entusiasmo, benissimo, vuole dirci che cosa ha letto oppure darci direttamente la sua opinione sull'articolo che le è stato fornito? Estromessi dagli Oscar. Estromessi dagli Oscar, lei ha una sua opinione? Credo che ha fretta di scrivere. Sì, no, non ho nessuna opinione. Non ha nessuna opinione, allora che cosa sta scrivendo se non ha nessuna opinione? Bravissimo, noi chiedevamo un pensiero compiuto, però se non è nelle sue corde capisco che non tutti possono arrivare. Lo scrive almeno in modo leggibile, grazie. Siete stati molto, molto carini a venire qua e ci avete dato una grande fiducia nel nostro paese con le vostre menti illuminate. Bene, io vi ringrazio e come vi ringrazia tutto il nostro pubblico, e ora vi invito ad andare a sedervi nuovamente ai posti originari e non quelli in prima fila accanto ai vostri parenti e ai vostri affetti per fare in modo che le vostre menti possano comunque godere del seguito di questo spettacolo definito proprio da voi bellissimo. A questo punto non mi resta che introdurre la parte della rivoluzione, ideologia del riformismo. Eccoci qui, io e il coro dei rivoluzionari. Che non si dica, che non si dica, non mandare via Beethoven. Che non si dica, facciamo soltanto l'opposizione. Che non si dica che non si tratta degli anni che sono solo dei individualisti di una vita postmoderna che rifiutano ogni progetto di Stato, non proiettato da nessuno. Siamo rivoluzionari, siamo qui per rivoluzionare qualcosa, qualunque cosa essa sia, qualsiasi cosa essa sia, e non si dica. Ecco, vi starete chiedendo perché vi ho portato un coro che non parla in coro. Il coro è l'incarnazione della voce popolare di questi tempi, la voce popolare parla sbagliata, è più capace di coordinarsi in fila. Pertanto noi, fedeli al spirito dei tempi, abbiamo deciso di rinunciare alla nostra funzione di coro. Quindi, guarda davanti, parleremo una volta. Pertanto noi, fedeli allo spirito dei tempi, abbiamo deciso di rinunciare alla nostra funzione di coro. Quindi, d'ora in avanti, parliamo uno alla volta. No, mi sembra un ottimo incipit per questa seconda parte, però credo che sia arrivato il momento di immaginare, no? In cosa consistevano davvero le riforme rivoluzionarie, cioè per cosa lottavano i rivoluzionari. Sì, i rivoluzionari traevano le loro proposte, le riforme che i rivoluzionari volevano introdurre erano davvero riformanti. Siccome la rivoluzione era democratica e non era assolutista, i rivoluzionari decisero che alla fine della rivoluzione ci sarebbero state libere elezioni. Ma la legge elettorale pre-rivoluzionaria era troppo poco aderente alla realtà, infatti per questo era soprannominata con il fiabesco epiteto di Porcellino. Prima grande riforma rivoluzionaria. Non saranno più chiamati al voto tutti i cittadini di maggiore età, ma tutti quelli che se la sentono coscienziosamente di esercitare il diritto di voto. Chiunque si siano, persone, stranieri, autoctoni, nomi, cose, città, fiumi, agli altri no. Ma c'è di più, no? Seconda grande riforma rivoluzionaria. I voti delle persone culturalmente preparate e con maggior spirito critico valgono di più. Ma come? Come facevano a far valere alcuni voti più di altri? Perché il voto non valeva più come un voto normale, ma era il risultato di una speciale equazione, detta equazione di Spooner, dal nome del matematico rivoluzionario che l'ebbe il voto. Il voto veniva moltiplicato per il coefficiente di cultura del votante, a cui si sommava la moneta costante di spirito critico e la variabile di esperienza, che esprimeva numericamente la capacità del singolo di imparare dalle esperienze precedenti per non ripetere gli errori fatti in passato, no? Si otteneva così il punteggio di votazione. Vinceva il candidato col più alto punteggio di votazione, non quelli col più alto numero di voti. Così se un milione di coglioni votavano un coglione e 11 persone intelligenti un secondo candidato, vinceva il secondo candidato. Sì, ma come? Cosa sarebbe successo se un candidato scadente fosse riuscito a manipolare i voti di 11 persone intelligenti? Terza grande riforma rivoluzionaria. A ogni candidato veniva affidato il coefficiente di eleggibilità, perché il dottor Spooner, che non era un coglione, formulò la sua seconda equazione. Il coefficiente di eleggibilità si basava sull'equazione già utilizzata per il votante, perché era un peccato buttare via un lavoro già fatto. Ma dai! Il coefficiente di voto veniva moltiplicato per altre due variabili, la variabile di esperienza e quella di incolpevolezza, derivante dall'andamento processuale del candidato. Però non ci possiamo dimenticare l'ultima variabile, che era la più temuta di tutte, il terribile fattore K, che sta per costanza. Come si ottiene la costanza? Si ottiene dividendo le promesse fatte dal candidato durante la campagna elettorale per le promesse mantenute durante il mandato. Se il coefficiente K è inferiore a 1, vuol dire che il candidato ha fatto delle promesse, sì, ma che non è riuscito a mantenere. Sì, ma come? Cosa sarebbe successo se il candidato era al suo primo mandato? Allora, il coefficiente K veniva sostituito da un pari coefficiente detto P, di prova. Se P scendeva sotto l'1, il candidato si dimetteva automaticamente, perché il primo mandato è il più delicato. Con questo rigido regolamento matematico, secondo voi, sarebbe esistito qualcuno capace in questo paese di farsi eleggere? Presto i seggi parlamentari sarebbero rimasti vuoti, dai, altre due grandi riforme. Beh, quarta grande riforma rivoluzionaria, riduzione dei seggi del 50%. No, ma anche dividendo per due le cose non cambiano. Quinta grande riforma rivoluzionaria. Sul modello della legge Boltzmann venne data la possibilità di ingaggiare politici comunitari in numero illimitato e poi un massimo di 3 politici extracomunitari per partito. Poi naturalmente la grande differenza tra calciatori e politici era che i politici in Parlamento non potevano portare sulla maglietta il nome dello sponsor. Diciamo che così abbiamo risolto il problema della classe politica, ma la classe dei cittadini. Sesta grande riforma rivoluzionaria, ciò che è pubblico è di tutti, e allora tutti devono prendersene cura. Sì, vabbè, non mi sembra una grande riforma rivoluzionaria. Certo che in questo modo lo Stato avrebbe risparmiato, perché sarebbe stato obbligo di ogni cittadino occuparsi di ciò che è suo. Per esempio, abolizione della tassa sulla circolazione e la pulizia delle strade, ma obbligo a tutti i cittadini di mantenere in funzione pulite le strade del loro quartiere. Mi sembra troppo collettivista. Allora, settima grande riforma rivoluzionaria, ognuno è libero di intraprendere personalmente la propria attività economica e anche di arricchirsi fino al massimo del doppio rispetto al capitale investito. Però tutto l'eccesso di ricchezza deve essere diviso in parti uguali. Una parte va all'imprenditore, una parte dipendente e l'altra allo Stato. Tutta la parte che va allo Stato poi viene automaticamente detratta dalle tasse. Lo stesso accade per la parte che va ai dipendenti. Così tu più produci, più arricchisci te stesso, i dipendenti e lo Stato, e meno paghi. Chi non raggiunge il reddito minimo di sopravvivenza non deve pagare niente, ma viene rimborsato della differenza. L'evasione fiscale non è contemplata e chi viene sorpreso evadere perde tutto, riparte da via e passa dalla prigione senza ritirare le 20.000 lire. Ottava grande riforma rivoluzionaria. Allo Stato, esattamente come alle Ollus, non è permesso arricchirsi. Tutto quello che viene guadagnato deve essere reinvestito per il miglioramento della vita pubblica e dei cittadini. Tutto quello che è in eccesso verrà riconsegnato ai cittadini per mezzo di un bel bonifico bancario. E dico tutto! Nona grande riforma rivoluzionaria! Tutte le risorse indispensabili per vivere non si pagano, ma ognuno è obbligato a contribuire alla comunità di tutte le risorse primarie che ha. Per esempio, il panettiere, un tot di pane. In cambio, il nostro panettiere riceverà acqua, gas, elettricità. Oh, chi vuole di più può averlo, solo che deve pagare l'eccesso. Ma si può fare così anche per gli artisti! Sì, il musicista dovrà fornire alla comunità un bel brano musicale, il pittore un quadro. L'artista plastico una scultura. Sì, il poeta una poesia. Franca, uno spettacolo. Sì, tutto con garanzia di qualità. Ogni eccesso di qualità oltre il minimo verrà naturalmente ripagato all'artista, ma non in denaro, ma in ciò di cui l'artista ha più bisogno, cioè cibo. Così i bravi artisti non faranno più la fame, mangeranno bene, lavoreranno meglio e vivranno più a lungo. Se smetteranno di fumare. Decima grande riforma rivoluzionaria. Siccome le precedenti riforme si sarebbero potute attuare solo con il buon senso, con l'intelligenza e con lo spirito critico di tutti i cittadini, il buon senso, lo spirito critico e l'intelligenza di tutti i cittadini saranno al primo posto nella lista delle sovvenzioni statali. E i ministeri che riceveranno più soldi da parte del governo saranno i ministeri dell'istruzione e quello della cultura. Questi sono alcuni esempi. Tante altre riforme furono attuate dai rivoluzionari. Non possiamo citarle tutte, no? Però ne leggeremo alcune. Espromessi dagli Oscar. Grazie. Viva i Papa Boys al governo. Grazie mille, ne terremo assolutamente conto. Grazie. Che fine hanno fatto le riforme? La rivoluzione è per America. Come sempre succede in questo paese, ci fu un problema. Non si può riformare un paese che non ha una forma. Il fronte rivoluzionario italiano si rese conto che prima di poter attuare le 10 grandi riforme rivoluzionarie era necessario attuare la suprema grande riforma rivoluzionaria, cioè la riforma della forma. Che cosa è l'Italia? 60 milioni di persone? Un paese? L'idea di un paese? L'Italia è un paese che non è un paese. E da un punto di vista sintattico la frase torna perfettamente. Soggetto, verbo, predicato, frase relativa. D'altro canto è il linguaggio che inventa il mondo. Definire l'Italia un paese che non è un paese è il modo migliore per fare in modo che questo paese sia un paese senza essere un paese. Nessun'altra grande riforma rivoluzionaria venne attuata. Ma così i problemi persistettero, anche i misteri. Com'è possibile che un organismo privo di forma sia potuto sopravvivere così a lungo? Cioè, neanche gli organismi protocellulari ce la fanno. Mi state facendo credere che riformare l'Italia era un problema evoluzionistico prima che rivoluzionario. La rivoluzione cominciò a dubitare di se stessa. Era chiaro che non è stata la rivoluzione a portare il caos in Italia. È stata l'Italia a portare il caos nella rivoluzione. cancellato. Naturalmente quello della riforma del sistema politico. In che direzione doveva andare il paese? Eh? Doveva dividersi? Doveva rimanere unito? La rivoluzione non l'aveva chiarito. Il secondo problema poi derivato dal primo fu quello della forma di governo da adottare. Ma a quale modello di società eravamo destinati? Ora, io ho pensato che per capire meglio questa condizione di aporia post-rivoluzionaria ci sarà molto utile servirci di un esempio. Procederemo dunque analizzando un'opera da molti considerata un vero e proprio capolavoro della storia della letteratura. Un'opera che sicuramente conoscerete perché ha avuto e continua ad avere un enorme successo in tutto il mondo. Tradotta in decine di lingue, in decine di paesi diversi, centinaia di pubblicazioni, anche illustrate, per non parlare degli adattamenti e delle libere trasposizioni per lo schermo. Ecco, secondo me, dietro la semplicità del suo carattere allegorico si nasconde in realtà una grande domanda. È possibile una società giusta in cui l'interesse collettivo non danneggi l'interesse personale? La storia, ambientata sullo sfondo bucolico, ha per protagonisti alcuni animali da fattoria, per essere più precisi alcuni maiali, che oramai rimasti senza padrone si comportano ora esattamente come uomini. Come avrete ormai tutti capito, stiamo parlando dei tre porcellini. Ecco, io ho pensato di ricostruire qui ed ora per voi la storia, avvalendomi naturalmente della collaborazione della vostra immaginazione. Dunque, immaginate lo scenario originale. Campagna bucolica. Bene, avete immaginato la campagna bucolica, allora possiamo cominciare. Prima scena, entra il primo porcellino. Nella prima scena vediamo il primo porcellino, il flautista, costruire la sua capanna di paglia. Io non credo che era necessaria questa cosa. Niente mutande! Il realismo della presentazione deve contrastare col carattere allegorico della rappresentazione. Una scelta estetica! È una scelta crudele! Costruisci la tua capanna e stai zitto, porcellino! Purtroppo la scarsità del budget non ci ha permesso di portare qui una vera e propria capanna di paglia. Però possiamo immaginarla, porcellino, aiuta il pubblico a immaginare. Sto costruendo una capanna di paglia. Ballando come nel film. Sto costruendo una capanna di paglia. Dai, ballando come nel film! Dai. Allora, canzoncina! Canzoncina! È importante per la caratterizzazione del personaggio, per la decodificazione dell'allegoria, canzoncina! La mia casa è paglia sol, si fa presto a farla su, con il flotto enorme compagno perché è meglio il gioco del lavoro. Meglio il gioco del lavoro, bravo porcellino! Andiamo avanti, seconda scena, entra il secondo porcellino. Nella seconda scena vediamo il secondo porcellino, il violinista, costruire la sua capanna di legno. Sto costruendo la mia capanna di legno. Ballando e suonando il violino. Maddalena, il violino è rotto, posso suonare il flauto? Violino! Canzoncina! Canzoncina! La mia casa è un ceppo qui, la mia casa è un ceppo lì. Con il mio violino mi diverto a suonare bumbatambo, gigebo! Boh, perché quello che dice qua il secondo porcellino io non l'ho capito! Ma non importa! Ma non importa! Perché quello che importa è che il secondo porcellino col suo bel martello costruisce la sua capanna di legno. Andiamo avanti. Terza scena, entra il terzo porcellino. La mia casa è di mattone, grosse pietre e ciottolone. Io non riesco mai a ballare perché ho sempre assai da fare. Ecco, il terzo porcellino lavora. Mentre gli altri due se la spassano ballando e suonando, non c'è bisogno che ripetiate la scena penosa di prima. Ecco, i due porcellini vanno a canzonare il terzo porcellino. Forza, canzonate il terzo porcellino. Lui non si riposa mai, come fai, come fai? Prova a fare come noi, la la la la la. Ma lui, saggio, li ha ammonisce. Divertitevi e ridete, non badate a me. Chissà dopo come tremerete quando il lupo arriverà. E loro, incoscienti, gli rispondono con la celebre frase: il gran lupo non teme, non teme, non teme, il gran lupo non teme. E naturalmente il lupo arriva. Sono io il lupo, eccomi, scusa. Era lì che guardavo, scusami tanto, adesso mi metto subito la maschera da lupo. Sì, vabbè, qui sapete bene come va, no? Il lupo insegue il primo porcellino che si rifugia nella sua capanna di paglia, eh? E il lupo butta giù la capanna di paglia con un soffio. Il primo porcellino si rifugia allora nella casa del secondo porcellino. Questa è di legno, un po' più difficile da buttare giù. Il lupo lo sa e, siccome non è stupido, tenta prima con il dialogo. Ma quando il dialogo è in stallo, come spesso poi accade nei negoziati di pace, il lupo fa finta di fare un passo indietro e si ripresenta alla porta travestito da pecora. L'ho lasciato a casa, il costume da pecora. Sì, chi è? Sono una pecora, mi sono pecora. E non è vero, sei quella di prima, dai, tu hai riconosciuto. No, sono una pecora, senti, Ragazzi, oh, ma dai, ma si vede che sei quella di prima. Cioè, non hai portato neanche la maschera alla pecora. No, sono a casa. Ma dai, Maddalena, i negoziati così non si fanno. Vabbè, il lupo non vuole sentire ragioni e con un soffio butta giù anche la casa di lei. Ora, i due porcellini si rifugiano allora nella casa del terzo porcellino. Ecco, sono tutti insieme nella casa del terzo porcellino. Il terzo porcellino suona il pianoforte, gli altri ballano. No! Il lupo si ripresenta alla porta. Sì, si ripresenta alla porta travestito da mercante di spazzola. Mercante. Forza! Volete comprare una spazzola? Prima! Allora, il lupo tenta di buttare giù anche la casa di mattoni con un soffio, ma va in ipoventilazione. Anche il subdolo tentativo di introdursi dal camino non va a buon fine, perché finisce per scottarsi col pentolone d'acqua bollente che i tre porcellini avevano sistemato sul fuoco. Allora il lupo corre via e i tre cantano la loro canzone: il gran lupo non temiamo, il gran lupo non temiamo, il gran lupo non temiamo. Ora! Il finale della storia sembra molto semplice. Il bene trionfa sul male. Ma che cos'è il bene? E che cos'è il male? Mi posso rimettere in mutanda? Sulla visione del mondo del lupo, chiaro? Sì. Bravo. Ma cosa rappresentano le due visioni, signori porcellini? Signor lupo? Grazie. Allora, a questo punto io vorrei avere una vostra opinione. Forza, primo porcellino. Sì, dunque, la domanda è pertinente. Allora io credo che questa sia una fiaba improntata sul sistema capitalista. I primi due porcellini non fanno un cazzo tutto il giorno, si godono la vita, scherzano, ridono. Poi quando arriva il lupo, che rappresenta proprio la crisi, la recessione, ecco che i due perdono tutto e infatti non hanno le mutande. Perché questa cosa delle mutande? E vanno a rifugiarsi dal terzo porcellino, quello ricco che è investito nel mattone, e infatti lui c'ha i pantaloni. Ma perché lui deve avere pensato cosa sarebbe successo se avesse seguito il consiglio degli altri due? Prova a fare come noi. Infatti lui è l'unico che può sconfiggere il lupo quando torna con quell'esile miserrimo tentativo di vendere quattro spazzolacce schifose. Perché io direi che lui sia autarchicamente porcellino e spazzola allo stesso tempo. Quindi bisogna che i primi due porcellini imparino. No, scusate, permettetemi di discrepare, perché al contrario, secondo me questa storia rappresenta la stabilità di un sistema comunista. Voglio dire, tre porcellini ma i tre porcellini rappresentano chiaramente le tre grandi classi lavoratrici. Abbiamo il contadino, il piccolo artigiano, l'operaio. Non può essere un caso che il primo porcellino, per raccogliere la paglia con cui costruisce la sua casetta, utilizzi una falce. Oppure che il secondo porcellino entri in scena con un bel martello, come anche, scusi, non può essere un caso che i tre porcellini sono in salvo quando, eh? Quando sono tutti insieme, tutti e tre sotto lo stesso tetto. Quindi, la sconfitta del buco, la sconfitta del buco, per cortesia! Va letta in prospettiva marxista, come un rovesciamento dei classici rapporti di potere, grazie, e qua lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo riconoscere, grazie alla consapevolezza del terzo porcellino, il quale lui sì acquisisce coscienza della sua forza lavoro. Quindi, caro collega, bisogna che i primi due porcellini imparino... Sì, però, il terzo porcellino è una figura chiave, perché è una figura extra narrativa. Noi qui stiamo presentando una visione del mondo, che è quella del terzo porcellino, attraverso un'altra visione del mondo, che è quella del narratore. Quindi la frase "bisogna che i primi due porcellini imparino" in realtà è riferita al pubblico, che deve imparare a capire che l'esegesi del testo, ma come l'interpretazione della realtà, è un processo personale, incompleto, parziale della verità. Quindi il terzo porcellino è una figura chiave. Ecco, mi sembra che già da questi primi interventi si stia delineando un tema forte intorno al quale vorrei che vertesse la discussione. Dunque, il terzo porcellino rinuncia ai divertimenti, al piacere personale e momentaneo, in nome di un ideale più alto. Ma quale, signore, questo ideale? Cioè, lui costruisce una casa di mattoni perché sa che una casa solida sarà l'unico modo per difendere la proprietà privata? Oppure vuole una casa solida perché quello che deve difendere è l'interesse collettivo, suo e dei suoi fratelli? Chi è davvero il terzo porcellino, questa personalità tormentata? Uno speculatore, forse, un marxista-leninista? Chiediamolo a lui, lo abbiamo invitato, prego! Innanzitutto voglio ringraziarla per l'invito. Io vorrei subito riallacciarmi ai discorsi dei miei colleghi. Il primo porcellino e il secondo porcellino. Quello che penso è che hanno entrambi in parte ragione. È quello che io credo comunque, che questa sia una storia che parla della necessità di un sistema economico misto. Ecco, il terzo porcellino rappresenta in qualche modo lo Stato, no? Infatti ha sugli altri due anche un certo tipo di potere morale, no? Decisionale, giuridico, oserei dire. Ed è comunque l'entità sociale che si fa garante della sicurezza degli altri due nei momenti di difficoltà. Ecco, che cosa intende lei per entità sociale garante? Cioè, intende lo Stato sociale che si deve occupare dei suoi cittadini delle classi meno agiate? O è lo Stato nazionale che si deve occupare delle sue regioni più povere? Sì, guardi, io personalmente penso che si tratti di tutte queste cose, cioè non bisogna individuarne una in particolare, è lo stesso problema. Sì, direi di sì, credo di sì, il lupo ha assolutamente ragione. Però, i primi due porcellini sono in una condizione difficile, ma voglio dire, che cosa possono farci? È la vita, no? Non è vero che questi due porcellini non hanno mai fatto niente nella loro esistenza, come poi tutti dicono. Hanno costruito comunque le loro casette, no? Certo, non avevano le stesse fortune che aveva il terzo porcellino, ma anche per una differenza di conformazione geofisica proprio del territorio. Ma tu avevi soltanto la paglia, tu avevi soltanto la legna, no? È evidente che se questi tre individui avessero vissuto la storia ognuno per proprio conto, beh, i primi due porcellini sarebbero morti. Mangiati da lui. No, non è vero, ma non è vero. Allora non ti mangiati, dai! Il terzo porcellino sarebbe sopravvissuto, è chiaro. Però che storia sarebbe stata? Il porcellino, autarco. Ecco, io penso che sì, libertà individuale, ma coscienza collettiva, questo è quello che la storia ci insegna. Quindi lei mi sta dicendo che il terzo porcellino deve sentirsi libero di seguire le proprie aspirazioni, ma non dimenticarsi mai dei fratelli in difficoltà. Cioè che lo Stato deve impegnarsi a favore del più debole, è questo che mi sta dicendo. Beh, va bene, allora è chiaro che il terzo porcellino è il più fortunato degli altri due, è quello più ricco. Voglio dire, però è la storia che lo esige, capisce? C'è sempre un porcellino più fortunato degli altri, è chiaro, però alla fine della storia viene anche fuori che il terzo porcellino è anche... è anche quello più intelligente, no? Più coscienzioso, ecco, mettiamola così, quello che comunque riesce a sfruttare al meglio il potenziale del territorio, no? Non lo so, lei che ne pensa allora? Io penso che sia una storia maschilista. Signori, i porcellini è un lupo, cioè nemmeno una donna, il lupo poteva benissimo essere una lupa. Io sono una lupa. pace, sono una donna. No, tu sei un'attrice che interpreta un ruolo maschile ed è uno sfasamento rispetto all'originale dovuto a esigenze di compagnia. Ah, e adesso il realismo della presentazione e l'allegoria della rappresentazione dove lo metti? Ma quindi io potevo entrare con le mutande! Il realismo di questo spettacolo sta nel fatto che il budget era realmente una merda e quindi non c'erano altri soldi per un attore maschio per il look. Ma allora, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Il secondo porcellino hanno preso le risorse in natura, uno la paglia e l'altro la legna, l'ho capito, ma il terzo porcellino, mi chiedevo io, chi ha dato i soldi al terzo porcellino per comprare la malta e i mattoni che in natura non si trovano? Chi gli ha dato i soldi al terzo porcellino per entrare nell'edilizia? A questo punto noi vi avremmo mostrato un video. Era il fiore all'occhiello della mia ricerca. Sarebbe stato un documento importantissimo che avrebbe dissipato finalmente ogni dubbio che ancora serpeggia tra gli scettici. Sarebbe stato un video originale dell'epoca. Però purtroppo è andato perduto. Allora ho chiesto per favore all'ultimo minuto agli attori se potevano gentilmente rappresentarlo per voi, anche se glielo ho chiesto proprio all'ultimo minuto, e fate molta attenzione perché è il fuori onda di un giornale televisivo dell'epoca. Bene, queste le ultime notizie di questo TG della sera, una notizia che arriva dalla Cina, che così tanto riempie le pagine economiche dei giornali negli ultimi anni. Cina per tre giorni gioca davanti al computer, entra in coma e muore. Ecco, Pechino, un uomo di 30 anni, non si è mai alzato né per mangiare né per dormire per tre giorni da un internet caffè, trasportato di urgenza in ospedale. I medici non sono riusciti a rianimarlo. Bene, una notizia che invece sconvolge la comunità di Sant'Ambrogio in Val di Susa, il titolo bimbo punito con sapone in bocca per una bestemmia. Per i carabinieri l'ipotesi di reato è abuso dei mezzi di correzione. Queste cose non si dicono, adesso sciacquati la bocca, sarebbe stato il commento delle maestre che poi sarebbero passate appunto alle vie di fatto. Chiudiamo con una notizia che interessa tutti i credenti di questo paese e anche di altri: via libera alle suore in jeans. Città del Vaticano, il Papa ha riconosciuto come istituto di diritto pontificio l'ordine Jesu Communio. Ecco, questo è il nome ufficiale, appunto in latino, di questo ordine, più conosciuto con il soprannome di suore in jeans, che deriva dal tessuto appunto usato per l'abito delle religiose. Bene, questo è tutto per il TG della sera, non mi resta che lasciarvi con i programmi della nostra rete. Auguro a tutti una buona serata. Dobbiamo fare in fretta, signore! C'è l'auto che ci aspetta col motore acceso qui sul retro! Dove ha preso le chiavi della mia BMW, capitano? Non le ha prese, signore! Cosa faceva prima di entrare nelle milizie, capitano Bissotto? Rubava auto oppure gliel'hanno insegnato al corso di addestramento? Con tutto il rispetto, generale Legnaghi, nessuno ha aperto la sua auto! L'auto che utilizzeremo stasera non è la sua BMW! Quella è saltata in aria durante la diretta! Merda! Ma questa è la terza volta in una settimana! Dovrete venire in autobus, signore! Ma dove cazzo eravate? Ci hanno insegnato la mia protezione personale! Siamo parte del corpo, signore! Anche se... parcheggiatori! Anche se io prima di entrare nelle milizie e facevo il parcheggiatore! Bene, va bene, l'auto di servizio. Notizia dal quartier generale, Maggiore Ercoloni. I ribelli hanno cercato un'altra volta l'assalto al Ministero delle Pari Opportunità, signore! Merda, questa è la terza volta in una settimana! Non ci sono riusciti, signor generale! I ribelli devono aver scoperto che il Ministero delle Pari Opportunità è in realtà un progetto di sviluppo per la fertilità femminile. Da lì sono uscite le nostre donne più belle, sa, capitano? I ribelli vogliono riprodursi e propagare la rivoluzione. 3 attacchi in una settimana. Questo vuol dire qualcosa, capitano? Questo significa qualcosa, signor generale! Notizie dal Ministero dello Sviluppo? Da giorni lo spettrometro non registra alcuna attività motoria né cerebrale in quella va a posto, signore! Allora stanno tutti bene, non dobbiamo preoccuparci. Questa rivoluzione mi dà sui nervi, signore! Comunicato urgente dal Ministero delle Comunicazioni, signore! Ah, oh, questi non fanno altro che mandare comunicati urgenti, è il terzo in 3 ore! Evidentemente si annoiano, signore! Vorrei proprio sapere cosa c'è di tanto urgente dal Ministero delle Comunicazioni. Se fosse successo qualcosa ce ne saremmo accorti, non sono qua, al terzo piano di questo edificio! Il numero 3, signore! Il numero 3 significa qualcosa! Hanno studiato la sede di Google Italia, signore! Ok, qualcosa di più interessante? Ma con tutto rispetto mi sembra che la cosa debba preoccuparci se i ribelli riescono a disattivare il sistema che abbiamo creato su tutta la rete! Ma Coloni, stia tranquillo, è soltanto uno specchio per le allodole, nessuno veramente lavora là dentro. Vengono pagati per far vedere che ci lavorano. Non esiste neanche google.it, il dominio .it sta per i turp. Una minuscola repubblica indipendente dell'arcipelago delle Curili, contesa tra Russia e Giappone. Ah, allora è così che si eliminano tutte le informazioni rivoluzionarie? No, Maggiore Coloni, certo che no, le notizie non si eliminano, non sarebbe leale. Vengono soltanto convertite in altre notizie più innocue attraverso una variante che converte i criteri di ricerca da causale in casuale su base 3. Rivoluzione, rivelazione, rivelazione, rilevazione, rilevazione, rilavazione. Rilavazione, signore? Sì, rilavazione di indumenti a mano oppure a secco. È per questo che se lei digita rivoluzione in Italia, le esce il numero di telefono e l'indirizzo di una lavanderia molto carina e anche economica in Piazza dello Statuto. Per quale motivo, signor generale? Perché è il mio suocero. Avere dei parenti delle milizie antirivoluzionarie ai suoi vantaggi. E cosa succede dopo? Dopo il terzo? Questo 3 significa qualcosa, generale! Nulla. Non succede nulla. Il sistema comincia a restituire dei risultati che apparentemente non hanno niente a che fare con le richieste dell'utente. E nessuno sa bene come. L'inventore di questo programma, un rivoluzionario matematico da noi rapito agli albori della rivoluzione, è stato messo a tacere per sempre. Ma perché hai tu, signor generale? Perché l'isola è inattaccabile. Per poter penetrare nell'isola bisogna prima conquistare la Kamchatka. Con tutto il rispetto, una missione suicida. La possibilità che i ribelli entrino nell'isola dello 0,0003. Non mi sento tanto bene, signor generale! Ma questo è un segreto molto, molto, molto importante, signor generale! Sì, infatti siamo soltanto 3 persone a conoscerlo. Io e il ministro delle comunicazioni e il capo supremo dell'Italia, di cui non farò il nome per non sputtanarlo, anche se sapete tutti chi è. E adesso anche noi, signor generale! Si sbaglia, maggiore. Pum, pum, pum! Clic, clic, cazzo! Erano rimaste solo 3 pallottole! Ah, il numero 3! Non si preoccupi, signor generale. Non lo dirò a nessuno della lavanderia a secco di suo suocero in piazza Statuto. Sì, per favore, che non si sappia. Ora sapete in che modo il governo occultava le informazioni su una rivoluzione in atto. E non solo sulla rivoluzione, ma su un sacco di altre cose. Come fu che nessuno se ne accorse. Abbiamo un ospite d'eccezione. Io non so neanche se definirlo ospite. E non so neanche se dire che lo abbiamo proprio qui. Prego, dottor Skumberg. Sono io, il fantomatico dottor Skumberg, inventore delle equazioni di Skumberg. dell'algoritmo It Group e di un sacco di altre cose, come per esempio il concetto di democrazia pop, sono io. So che per alcuni di voi potrà sembrare strano vedermi qui questa sera ad anni di distanza dal giorno in cui sono morto. Quella che vedete è solo una proiezione olografica della mia persona. Io ho registrato questo messaggio prima della messa in funzione dell'algoritmo It Group, perché prevedevo una precoce fine della mia misera esistenza di matematico. Spero che non ci siano interferenze nella trasmissione. Un funzionamento corretto di questo ologramma dovrebbe darvi l'impressione di trovarvi di fronte ad una persona in carne ed ossa che sta realmente parlando con voi dal palco di un teatro. Invece io non vi posso neanche sentire, poiché sono solo un ologramma. Prevedendo però che durante questo messaggio possano arrivare delle domande, ho elaborato un algoritmo che fornirà una serie di plausibili risposte ogni qualvolta questo messaggio verrà interrotto, premendo il tasto pausa. C'è qualcuno che vuole fare una domanda al dottor Spumberg? Sono un impiegato dell'intervista simile! La risposta è sì. Effettivamente. Immagino che la prima domanda sia stata: veramente lei è riuscito in questo miracolo della tecnologia? Oppure, possiamo fidarci di lei? Un ologramma è un supporto videofonografico multidimensionale che riproduce un'immagine con una proiezione apparente di un corpo che in realtà non è presente. Proprio il concetto di apparenza ci sarà fondamentale per capire in che modo venivano manipolate le informazioni da parte delle milizie antirivoluzionarie per confondere l'opinione pubblica, quando le milizie li rapirono, mi costrinsero a collaborare con loro. E il mio scopo semplicemente era elaborare un algoritmo che fornisse lo slittamento semantico del significato delle parole. In realtà, il vero scopo dell'algoritmo It Group era corrompere il linguaggio. E la manipolazione del linguaggio matematico che io portai avanti con l'algoritmo It Group corrispose perfettamente alla manipolazione del linguaggio naturale, anzi. Della lingua italiana, portata avanti dal governo a livello massificato. Il significante, ovvero la parola pronunciata, veniva mantenuta intatta. Il suo significato, però no, veniva poco a poco separato dal suo significante, ovvero veniva deviato. L'algoritmo dapprima spostava di poco il significato e lo apriva a molteplici interpretazioni ambigue. Solo poi, in un secondo momento, quando il parlante aveva cominciato ad assimilare il significato nuovo, l'algoritmo faceva addirittura dimenticare al parlante il significato precedente. Come fu possibile tutto ciò? Con un meccanismo molto semplice, il consenso popolare. Se il popolo era dubbioso, l'algoritmo provocava lo slittamento con cautela e con una continua strategia di martellamento attraverso la ripetizione costante per mezzo di ogni canale di comunicazione, dal cinema alla televisione, dalla carta stampata ad internet, il nuovo significato si faceva spazio nella testa del parlante. Parole come intellettuale, come filosofo, presero poco a poco a deviare verso altre accezioni più ambigue. Però le milizie sapevano che la loro strategia non avrebbe potuto dare gli effetti desiderati se il popolo avesse continuato ad utilizzare lo spirito critico. Allora ricorsero alla lotta biologica. Inserirono un batterio anticritica in tutti gli acquedotti italiani, così ridussero al minimo lo spirito critico dei cittadini, che utilizzavano l'acqua per bere, per lavarsi, per lavare la frutta. L'algoritmo It Group funzionò perfettamente. Una parola come libertà prese poco a poco a deviare verso altre accezioni. Il suo significato si confuse con quello di altre parole che avevano la stessa radice ma avevano un significato completamente diverso. Era impossibile capire se si stesse parlando di libertà, di liberismo, di liberalismo, di libertinismo oppure di libertinaggio. In altri casi invece il significato non veniva nemmeno sostituito da un falso sinonimo. Una volta deviato veniva semplicemente abbandonato su un binario morto. Per esempio una parola come democratico, che etimologicamente rappresenta la manifestazione del potere popolare, rimase così vuota. Il mio intervento finisce qui. Ora sapete tutto quello che dovevate sapere sul perché. Un concetto come rivoluzione non ha lasciato traccia. E io non devo andare neanche a costituirmi, perché io sono già morto. Ecco svelato il mistero. Il maggior problema dell'Italia era un problema di corruzione del linguaggio, oltre che di censura. A questo punto io ho un asso nella manica. Ho invitato alcune persone che oltre a voi e a me hanno sentito parlare della rivoluzione. Sono i trisnipoti dei veri rivoluzionari. Primo testimone. Sì. Uno, due, tre, ma prova. Non puoi parlare, prego. Sì, dunque. Non mi ricordo cosa dovevo dire. Il trisnonno si aggregò alla rivoluzione. Non lo so, un buco, qualcuno ha un copione. Vieni, vieni, ce l'ho io qua. Ma qua ci sono solo le tue battute. Ma hai cancellato la mia parte? Senti, io mi scrivo solo quello che devo dire io. Ah, perché quello che devo dire io non è importante. Ma tanto tu non devi dire niente. Ma se non devo dire niente ci sarà una ragione. Fatti i cazzi tuoi. Ma innanzitutto devi calmarti, perché non c'è bisogno di arrabbiarti. Non sono arrabbiata. Scusate. Che cazzo fai? Per favore, possiamo andare avanti. Me lo dici come andiamo avanti? Bravo testimone, forza. Ah, ecco. Cosa fa? Cosa fa? Cosa dice? È afono. Ha perso la voce durante allora, lo spettacolo. Allora, testimone. Almeno tu sarai una persona normale, forza. Sì, certo, ma non so niente. Mi dispiace. Io sono soltanto un testimone di quarta generazione. La storia venne raccontata da mio trisnonno a mio bisnonno, che la raccontò a mio nonno, che la raccontò a mio padre, che la raccontò a me. Ormai si è sottigliata così tanto che non è rimasto niente. Cos'è questo? Cosa? Ma fammi vedere il documento. Due biglietti per il concerto di Valerio Scanu. Due biglietti per il concerto di Valerio Scanu. Due biglietti per il concerto di Valerio Scanu! Due biglietti per Roma Juventus, Valerio Scanu l'avevo già visto. Vi siete fatti corrompere? No. No! Ok, ci siamo fatti corrompere! Io non ci credo! Invece è vero! Lo faccio da sola, va bene? Quello che avreste dovuto dire voi lo faccio da sola, va bene? Cosa credete di fermarmi? Ma perché mi fate questo? Perché? Noi non stiamo facendo niente. Ti è tornata la voce? È questo spettacolo che non c'ha basi solide. Si parla di una rivoluzione e non si dice chi l'ha inventata, chi l'ha portata avanti. Ma quanto è durata? È il caos più completo. Tu mi dici questo? Tu che abbiamo lavorato così a lungo su questo progetto, tu? Senti, io credo che sia arrivato il momento di dirglielo. Cosa? C'è un dossier su di te. Che dossier? Dossier di Barbara Orazzi. Un merda. Non leggere ad alta voce, lo dico per te. 2003-2007, altro stabile di Torino. Ok. 2008... 2010-2011... Otello con Walter Ludo e Lori del Santo. Ma non è vero! Questo... lo sei tu? Se è vero o no? Comunque, guarda, io non ti giudico. Io direi che ci possiamo fermare qua. Con questo dossier non si può andare avanti. Arrivederci. No. No, io non lo finisco così lo spettacolo. A me non me ne frega un cazzo del dossier. Io non me ne vado via di qui finché non ho finito. C'è bisogno di un messaggio forte. E questo paese ha bisogno di persone che facciano sentire la propria voce. Io non me ne vado via di qui finché non ho finito. E non ho finito finché non ho detto tutto quello che dovevo dire. E non ho detto tutto quello che dovevo dire finché non ho detto che ci sono delle persone in questo paese che per anni ci hanno fatto credere che era impossibile cambiare le cose. Però le cose cambieranno. Dopo quello che sto per dire. E quello che sto per dire è che